Buonasera, buona domenica e ben ritornati su Stormo Rock. Come sono, come di consueto, attimi di panico per questa intervista del 2024. Detto ciò, effettivamente siamo alla prima intervista del 2024. Adesso vi andrò anche a dire chi c'è con me, perché sono in tre, quindi ci sarà tanto da parlare, anche e soprattutto per la prima domanda che di rito, che ormai nessuno potrà sfuggire, soprattutto anche loro, perché sono giovani ragazzi, più o meno qua della mia età, qualche anno in meno, ma comunque sapranno di cosa parlo. Forse il membro principale che vedo con la testa più grande probabilmente sa di chi sto parlando, ma in realtà come no, male adesso vi introduco. Comunque, per chi ci ha seguito durante il lockdown le dirette che faceva su Twitch Riccardo, conosciuto anche dai più per Warhols, e dietro di lui c'hanno due comparse, per modo di dire. Adesso ovviamente sto scherzando. Sto ovviamente scherzando. Adesso aumento anche il volume a loro, che così possono tranquillamente sentirsi. Ma dopo questa introduzione pessima, perché ovviamente non è ovviamente quello che volevo andare a fare, ci sono la nuovissima band degli, adesso Riccardo è sparito perché non so per quale motivo, nuovissima band degli Sludder, nati praticamente 2 anni fa, anzi 1 anno e mezzo fa. E quindi ciao ragazzi, come state? Ciao a tutti, ciao. A parte Riccardo, che è un po' triste. Stiamo bene, ma Riccardo è triste perché sono triste perché insomma la situazione del mondiale non è delle migliori, quindi tendenzialmente sono triste. Ciao a tutti, stiamo bene, a parte il mondo che va un po' così. Sì, va un po' in vacca, non è che. Non è se che vincessi Miss Italia chiederei la pace nel mondo. Ok. Vedi, quindi sono quei discorsi importanti da fare, perché ogni Miss Italia ha il suo dovere da dover fare, quindi hai fatto bene a dirlo, è un concetto molto importante, e spero che comunque tu riuscirai un giorno a vincere effettivamente Miss Italia. Ci sto provando dal 2004. Ma. Dal 2004, ma neanche le selezioni riesci a passare? No, selezione veneta l'ho passata. Ok. Perché lì all'epoca. Dopo il difficile. Ok. No, poi all'inizio prendono tutti. Sì. Stavo per fare una battuta di black humor clamorosa che non farò. Bravissimo che ti sei bloccato un attimo prima, perché è un attimo qua che tra radio e Instagram qualcuno ci venga a dire qualche nomaccio. Ma in realtà, oltre a Riccardo, che ovviamente come avevo detto è conosciuto magari ai più per il discorso di Sarapanca che aveva fatto qualche tempo fa, io adesso non so bene come si è girato la telecamera, perché io vedo a destra però magari una a sinistra. Da una parte c'è Bollo, che comunque era negli Slang Poor Kids, è stato ospite l'anno scorso, e dall'altra parte Gigio, che è parte sempre degli Sludder. Quindi questa è 3/5 della band, se non sbaglio, giusto? Yes, esatto. 3/5 della band, quindi Sludder, che sono usciti con il primo EP Sooner or Later, che dopo andrò a chiedere anche da dove è stato un attimo preso, perché ho un riferimento di un'altra band, però magari non c'entra assolutamente nulla. Ma come dicevo, prima di iniziare effettivamente un attimo a conoscere meglio gli Sludder, con le domande canoniche, come sono un po' formati e ispirazioni musicali, c'è la domanda di rito iniziale di The Stormo Rock che faccio praticamente a tutti e nessuno scappa. Sicuramente sapete dello scioglimento di quest'anno dei NoFX, del Final Tour, che passerà anche da Milano a maggio. Quindi, con la sintesi, se riuscite, vi chiedo cosa sono per voi NoFX. Rispondete voi. Io già risposto l'altra volta. Allora risponde Gigio. Penso che abbiano influenzato praticamente il 90% delle band punk rock, immagino. Volontariamente o involontariamente, secondo me, sia a livello di riff, sia a livello di attitudine, o anche non lo so, a me piacciono, credo che sia una delle mie band preferite. C'è stato un momento in cui mi stavano un po' sul cazzo, che non li seguivo tanto, però è innegabile che siano stati una band fondamentale per il genere, perché ripeto, cioè, secondo me c'è un primo e un dopo, no? Come sono stati Bad Religion, i NoFX hanno preso quella roba lì, gli è andato qualcosina in più, e da lì hanno aperto le porte a un sacco di altre band che sono venute dopo, super fighe. Ok, Riccardo. Come dicevo, No, tanto ha detto Gigio, per me in FX sono stati e rimarranno per sempre la band che di cui mi hanno regalato un CD trovato nell'immondizia, e una mia compagna di classe mi ha regalato sto porta CD, e all'interno del quale c'era Ribed, l'ho raccontato tante volte, e io però ero tipo in seconda media, una roba del genere, metto Ribed sul lettore CD e per me era inascoltabile, era troppo violento, cioè no, per me bambino era troppo violento. Anni dopo mi sono reso conto che in realtà neanche tanti, mi sono reso conto che invece era un capolavoro. Quindi in FX, cioè, ho quel ricordo lì, così, che erano inascoltabili per me da piccolo, perché ero piccolo, avevo 12 anni. Ho praticamente la stessa approccio iniziale, ho avuto anch'io lo stesso approccio iniziale. Io penso che ho ascoltato ancora peggio come prima volta, ho ascoltato Libra Animation, quindi penso che sia ancora peggio di Ribbed, quindi sì. Era ancora più inascoltabile, quindi direi che comunque... Dici che bene o male Ribbed è andata anche fatta bene, poi ovviamente per un ragazzino di 12 anni non era sicuramente il massimo, ma... Detto, ovviamente a Bollo non glielo chiedo perché aveva già risposto al discorso di Design for Kids, quindi andiamo a recuperare un attimino di tempo, sennò c'era un'altra versione, ma sicuramente anche lui dispiaciuto per quanto riguarda, se non vi ricordate da qualche parte nella nostra pagina Instagram, la diretta c'è, è caricata, e quindi come questa prima domanda di apripista che, come dicevo, nessuno sfugge, andiamo effettivamente a parlare con gli Sludder, quindi una domanda canonica che ovviamente ne salteranno fuori qualcun altro durante l'intervista: come vi siete formati? Anche perché obiettivamente è da 2 anni più o meno che esistete, quindi come è nato il progetto Sludder, come è nata la band Sludder? Chi risponde? Scegli chi risponde. Urca, se ci sì, allora chi è il membro più vecchio? Di età? Sì. Io. Vai. Allora, prima tu, poi dopo a rotazione. È giusto che rispondi, te, perché sei il perno, dai. Va bene, allora, la domanda era come o quando? Come? Allora, Bayfest 2021. Ok. Quindi, Bayfest, quello organizzato la Pancadeca, diciamo, quello acustico. Io ero lì, con appunto Pancateca, che portavo Sara Panca, versione dal vivo per la prima volta, e in momenti diversi arrivano loro due e in realtà anche Molly, che è l'altro chitarrista insieme a Gigio, a giocare a Sara Panca, e arrivano e chiacchierando un po' con tutti, salta fuori che mi dicono entrambi, ripeto, in momenti diversi perché non si conoscevano loro due, esatto, che sono di Brescia. Io quell'estate stavo cercando casa proprio in provincia di Brescia, perché comunque era da anni che provavo a trasferirmi, allora a caso, ma in maniera anche molto cazzona, dico a tutti e tre: cazzo, ma quando mi trasferisco facciamo una band? Finisce lì. Ok. Finisce lì. Sai quelle cose che dici un po' ubriaco, certo, così a casa? Ah, fuori, facciamo una band. Con l'occhio qua, esatto. E finisce lì. Poi invito gli Slam Pool Kids a Sara Panca, e da lì praticamente inizia un'amicizia con Bolo. Diventiamo amici. E una sera lui mi fa: ma conosci qualcuno che cerca un batterista? Io stavo cercando, siccome io sono batterista d'origine, stavo cercando una band perché volevo tornare naturalmente a suonare il mio strumento. Ok. E io gli faccio: no, non conosco nessuno che cerca un batterista, ma se vuoi fondiamo una band. Conosco due ragazzi. Capito. Avevo parlato sempre a quel Bayfest con altri due ragazzi, li conosci? No. Vabbè, fatto sta che lo stesso weekend, cioè la settimana in cui lui mi chiede sta cosa, vado all'Irritate Fest di Irritate People e incontro Gigio. Ok. E gli chiedo: ascoltare che ho parlato con Bolo, quello di Slam for Kids, anche quella volta lì con un occhio qua, perfetto. E niente, da là lui mi dice: sì, ma c'è anche Molly, ti ricordi l'altro ragazzo? Certo, mi ricordo. Boh, tiriamo in piedi sta cosa. Ci abbiamo messo 2 mesi e mezzo a trovare il giorno per far prove. Ti ricordate? Sì, sì, tutti tutti la la però ci siamo incontrati tutti fisicamente al concerto della Violent Scream. Ok. E lì gli abbiamo detto, boh, dai, tal giorno, che era tipo dopo 3 settimane, perché altrimenti non riuscivamo. E ci troviamo, facciamo prove, abbiamo iniziato, e da lì in 4. E a settembre arriva Jack, perché volevamo un cantante che avesse una voce particolare, che fosse bravo. E quindi abbiamo cercato un po', abbiamo provato 2 o 3 cantanti, abbiamo provato un paio di ragazzi, e poi alla fine è arrivato lui, tipo verso settembre, agosto, si è fatto una prova, ci ha convinto. Era lui che non era convinto all'inizio, poi alla fine l'abbiamo convinto e si è convinto anche lui, perché lui ha un'altra band, sì, okay, e aveva paura magari anche di non starci dentro quei tempi, e invece sì, con la nostra contagiosa e fragorosa simpatia. Esatto, vedi, l'importante è quindi sostanzialmente tutto nato un po' dall'alcol e un po' da qualche battuta un po' buttata lì a casaccio, si sono formati gli Sladder, quindi va bene, molto, ma ci stanno questi inizi un po' cazzoni, che dicevo, ma sì, dai, facciamo, poi vediamo se, e in realtà il vediamo se ogni tanto è andato a finire così. Vabbè, mi fa piacere questo primo debut EP, quindi prima di andare a lanciare anche il vostro pezzo, brevemente vi chiedo se Sooner or Later è stato preso da una canzone dei Nofana Tall, dell'ultimo album, Seventh Wave, o non c'entra assolutamente nulla? No, prima... non c'entra niente. Però... era proprio il concetto che avevamo di dire, siccome suoniamo da tanto tutti, no? Nella nostra vita. Era un po' il concetto di dire prima o poi, cioè, prima o poi arriva, prima o poi ce la faremo, perché ci abbiamo sempre messo tanto impegno, quindi no, prima o poi riusciremo a sfondare, riusciremo a suonare dappertutto, non lo so, prima o poi qualcuno ci cagherà, vedi, ci caga, prima o poi... e più c'era l'altro senso parallelo, che durante quest'anno di concerti, ad ogni concerto ci chiedevano, ma quando è che esce roba? Prima o poi, perché è un sacco senza avere niente registrato, quindi ci chiedevano quando è che esce roba, quando è che esce l'album, l'EP, prima o poi prima o poi lo faremo. Fantastico, quindi sostanzialmente nulla lasciato al caso, anche questo prima o poi ha effettivamente una base solida dietro. Bene, sembrava una minchiata, in realtà a tutto. Ma a in tutto... realtà gli Sladder partono a caso, poi tutto quello che hanno fatto dopo invece è super pensato. Vedi. È magnifica questa cosa. Ma perché noi prendiamo una cazzata che diciamo a caso e poi ci costruiamo? Sì, pensa che quella volta abbiamo fatto così, ma avrebbe senso. Però poi ha funzionato. Ricordo sempre che oltre la diretta di radio che state ascoltando, quindi al 333-180-94-94 potete tranquillamente mandare un messaggio tramite WhatsApp. Siamo anche in diretta, come di consueto, anche su Instagram. Quindi nel caso qualcuno si fosse perso il discorso di come è nato anche il nome Sladder, si lo può tranquillamente andare a rivedere nella nostra pagina Instagram di Lestolmo Rock, ma brevemente... ce lo ridiranno anche così, anche perché non ha ascoltato la radio, può tranquillamente ascoltarsi come è nato brevemente il nome Sladder. Gigio, io sempre stava... io, va bene. Ha detto Gigio. No, beh, è nato, cercavamo un po' una parola, ma tutta, cioè tutta la spiegazione. No, adesso una stringata, se no dopo andiamo un po' oltre. Ma cioè, cercavamo una parola unica, senza il nome composto. Senza avere un nome composto, senza avere il De davanti, un po' come appunto l'Egvegono, eccetera. E abbiamo trovato questa parola che in danese significa... senza senso, perché tutte le nostre conversazioni all'inizio andavano tutte a puttane e non aveva senso quello che scrivevamo effettivamente. Poi in realtà, diciamo che americanizzando un po' il termine, abbiamo trovato che significa praticamente sporcarsi, infangarsi, e effettivamente è una cosa con la quale facciamo tutti i conti nella vita quotidiana, no? Dal lavoro piuttosto che alla famiglia o qualsiasi menata, tutti le hanno. E quindi è niente, no, questo è quanto. Ci sta, questo è l'ennesima riprova che da una stupidata comunque avete trovato un senso anche abbastanza importante dietro alla questione. Sì. Quindi il discorso che dicevate, penso che riguardi moltissimi di noi in tutta, di tutte le persone in generale. Hai citato più chi meno, cioè, siamo dentro tutti, esatto, siamo tutti infangati alla fine, sì, siamo tutti, per questo che il mondo sono triste. Ripartiamo con la solita discorso. Hai citato leggermente un attimo prima il Gwegon, quindi ti vado a chiedere d'impatto la prima cosa che avevo notato, una cosa molto molto breve, che io so già la risposta, ma ve la ripropongo come avevo un attimo detto. Questa copertina ricorda tantissimo, per io che sono un attimo attento anche un attimo a queste cose, cerco di farci più caso magari. Ho visto che avete preso effettivamente magari spunto dall'EP I Think My Old Brother Listens to the Gwegon, effettivamente delle Gwegon, e dato che Gigio stavi parlando tu e sei tu praticamente, sì, da quello che ho capito, l'artefice di questa copertina, mi confermi o no se è così? Allora, è così, ma allora, dire che sono artefice non lo so, non mi ci sento in questo ruolo, però è una cosa su cui ci siamo confrontati tutti e c'è stato l'ok di tutti dopo varie prove, chiaramente. C'è stato un momento, un giorno, dove ho detto, oh, ma perché non proviamo a fare una cosa del genere? E gli ho girato la copertina a Riccardo e ok, va bene, ci sta, il font anche di Sooner or Later è quello. È molto simile. Molto simile, la macchina da scrivere, anche con impostazione. E vabbè, poi a prescindere da quello, sì, cioè siamo, almeno personalmente sono molto legato alle Gwegon, credo che sia la band che ho visto di più in assoluto, e anche quel disco lì che tutti lo malcagano, invece secondo me è bellissimo, cioè loro stessi lo malcagano, in realtà secondo me è mega bello, e niente. Quindi, sì, ti confermo che hai preso un po' da lì. Benissimo. L'ispirazione è un po' da lì. L'ispirazione appunto, e c'è da dire anche che non abbiamo detto prima che a quel famoso Bayfest 2021 dove ci siamo conosciuti, l'headliner era Joy Cape. Esatto. Quindi eravamo lì tutti e tre, soprattutto Bolo che era solo lì quel giorno, se non sbaglio. Cioè eravamo lì per Joy Cape. Sì, sì. E quindi diciamo che il Leg Wagon, seppur magari non musicalmente, però a livello di cuore, di che poi, con tutto rispetto per Joy Cape, ma live di Joy Cape in acustico, vabbè, sì, è un po', guarda, capisco, è molto impegnativo, molto impegnativo. Però al di là di tutto, comunque siamo legati tutti ai Leg Wagon, sì, e è quello che ci ha fatto conoscere, quindi ci stava omaggiarli in questa maniera grafica. No, certo, giustissimo, sì, giustissimo. Ah, Joy Cape. Salutiamo Joy Cape. Ovviamente l'ho visto che si è connesso, quindi sicuramente non capisce bene tutto, però probabilmente capirà qualcosa. È sempre qui, bene o male, in Italia, è capitato molto spesso da queste parti. Prima della pubblicità, dove andrò a mettere un altro pezzo di una nuova uscita, che magari mi sto ripescando qualcosa dallo scorso anno. Date ne avete già fatte diverse, ma vi chiedo se ne avete già qualcun'altra. Sì, abbiamo già qualche data, tra l'altro abbiamo settimana prossima quella più importante, che è facciamo release party dell'EP. Ok. A Milano, a casa di Alex, okay. Si chiama al posto. E poi sì, abbiamo ancora qualche data in giro. Sì, ne ho parecchie. Parecchie date. Poi adesso a breve uscirà, penso, una locandina, comunque qualcosa riassuntiva, dove riassumiamo tutte le date. Seconda parte di Stormo Rock, sono sempre qui collegato con i ragazzi degli Sludder, che siamo collegati sia tramite radio che ci state ascoltando e Instagram, quindi se qualcuno ci vuole scrivere qualche commento può tranquillamente farlo nella diretta che stiamo avendo in questo momento, oppure al 333-180-9494 tramite WhatsApp. Nella prima parte si era parlato un attimo delle date degli Sludder, che comunque ne hanno una la prossima settimana, che sarà effettivamente il release party del loro EP. Grazie per le onde, tra poco probabilmente vomiterò, ma fa lo stesso. No, vabbè, fate, non vi preoccupate, ma usciranno anche altre date, quindi se avete intenzione di sapere dove poter vedere gli Sludder anche dal vivo, seguiteli sulla loro pagina di Instagram o Facebook o qualsiasi cosa, anche delle varie pagine dei vari membri, che sicuramente tireranno fuori qualcosa. Ma ipoteticamente quante date avete da confermare? 9. No, buono. Buono. Non sentite, sì. Qualcuno a qualcuno di internazionale c'è? Secondo me no. No, una forse, non lo so, non so bene chi ci sarà l'headliner, ma molto figa, okay. Data molto figa. E poi il resto, cioè, sono tutti, secondo me, tutti belli eventini. Sì, sono delle belle date, tutte belle date. Una, tra l'altro, quest'estate molto bella, secondo me. Ok. Quale? Vabbè, adesso. Ah, ok. No, vabbè, c'è sempre qualcuno nella band che sa le cose per ultimo. Mi è già capitato. No, in realtà le sa. No, io le so mai, cioè, le so, ma poi non me le dimentico totalmente. Quale? Diciamo che se non ci fossi io qua sarebbe un casino. Cioè, gente che compra biglietti, per eventi e poi scopre che dobbiamo suonare. No, fantastico. Questo è uno degli aneddoti. Cazzo, allora adesso brevemente, c'è qualcuno che accavalla due date, o se c'è qualcuno che accavalla due date, ma ne abbiamo, no. Fantastico. Allora, brevemente, prima mi dovete assolutamente raccontare il discorso di tu Gigio, che hai comprato un biglietto di chi a sto punto? io ho comprato il biglietto dei Ricobellis, che fanno i 15 anni, credo il 3 marzo suonano a Brescia, okay. In cambio il 3 Localiro, cioè comunque ci sono nostri grandi amici, grande festa, poi ci piace naturalmente, volevamo andare cosa succede, che ero al lavoro e se non mi ricordo se giovedì o venerdì, comunque Simone scrive, scusa Gigio, ti fermo un secondo, sì. Spiego. C'era il biglietto perché è un posto in centro a Brescia, nel Carmine, che è la zona più alternative della città. Era molto piccolo. Però in un posto molto piccolo, con capienza 100 persone, e quindi fanno la prevendita. Okay. C'erano 4 band, comunque una bella data. E no, figo. Sarà maturo. E per non trovarmi sprovvisto, io sono sempre l'ansia su ste robe. Boh, ho comprato il biglietto, no? Il problema è che poi scrivo loro e dico: oh raga, ci siamo tutti, io ci ho preso un biglietto, eh. E fa: oh guarda che sono suonare a Chiasso, guarda, cioè, ah cazzo, diceva lui, quindi in vacca, fantastico, vabbè, sì, ho scritto a Simone, regalano pure il biglietto raga, fun fact, tre giorni dopo un nostro amico Giacomino, che salutiamo, scrive in un gruppo: ragazzi, c'è il Padova 100% hardcore, bim bum bam, io vado, mi sono messo d'accordo con Gigio. E io gli rispondo: ma Gigio, cosa che dobbiamo suonare quel giorno? Fantastico. Fantastico. Due su due sostanzialmente, non era facile, però però almeno non era già il biglietto del 100%, almeno. Però era già lì, ho detto vabbè, chi se ne frega, che se sono, intanto il biglietto lo compro, metti che la data salta, almeno il biglietto ce l'ho. Esatto. Ma potrebbe essere una strategia, comunque. Potrebbe essere una strategia. No, certo, dovevi rivenderlo a doppio, tipo il paganino. Però mi ha fatto molto ridere, perché cazzo, era successo 3 giorni prima quella dei Ricobellis. e dici, basta, cioè, basta una. Tornando un attimo a... No, meno male che c'è il Cato che tiene le redini qua, perché abbiamo la testa tutti nel culo, Sì, guarda. Sì, alla grande. E invece Volo... Ok. L'ho fatta più grossa ancora, forse. Vai. Praticamente ho preso data sia con gli Slamful Kids sia con gli Sladder lo stesso giorno. Stesso posto, magari, così magari sono... No, lontanissimi. Cazzo. Cioè, loro su a Trento, perché cos'è Trento? Eravamo quasi a Bolzano e io a Bergamo con gli Slamful Kids. Fantastico. E quindi chi è che ha annullato? Confermate tutte e due le date, già prese, confermato tutto. E poi Riccardo mi fa: ma cioè, abbiamo la data anche noi, su come facciamo? fantastico. Vabbè, allora Riccardo, per fortuna ci sei tu, quindi non perdere il senno tu, perché sennò qua è un disastro, quindi no, c'ho tutti i miei file Excel, non preoccuparti. Bravo. No, per fortuna che lui è organizzatissimo, quindi non se ne perde neanche una, ci sgrida anche. Ok. E poi cattivo, lui si fa vedere tutto simpatico. Cattivo! Triste, ma triste e cattivo. Benissimo, quindi la parte seria, diciamo, di quello che volevo un attimo ritornare sulla parte seria, ne parliamo dopo, ma intanto ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo degli Sladder, penso che sia il primo singolo che avete tirato fuori, Porcupine, se non sbaglio, giusto? Sì. E rientriamo in diretta dopo l'ultima ventina di minuti scarsi, quarto d'ora comunque, per sempre in collegamento qui con i ragazzi degli Sladder. Ora Nicola Bonta. Torniamo un attimo dopo il siparietto abbastanza simpatico del rientro, comunque con i vari aneddoti che comunque ricordo che ve li potete tranquillamente sentire sul podcast che tireremo fuori tra qualche giorno. Ma intanto momentaneamente un'altra domanda canonica che non può mancare: le influenze, quali sono le band che vi hanno influenzato maggiormente per tirare su un po' gli Sladder? Domandone, so che state facendo finta di nulla, però è una domanda di diritto. Sicuramente la Wagon, come abbiamo detto prima. Poi secondo me No Use for a Day, anche. Millencolin intanto. Banner Pilot. Secondo me anche Banner Pilot. Ok, Banner Pilot. Sì, in questo pino si sente tanto di Banner Pilot. Abbiamo sempre detto Banner Pilot, ma... Ma ce l'hanno anche detto. Io ho sempre visto. Non so più le canzoni nuove che sentono. Può essere. Cioè, come sound, a me fanno venire sempre in mente tipo canzoni come 33 o Nothing But Friends, a me fanno venire in mente Millencolin. Sì, è vero. Tanto Millencolin, secondo me, ma per me inconsciamente. Non l'abbiamo fatto apposta. Cioè, col senno di poi, quando ci hanno detto Millencolin, e ci abbiamo visto in Millencolin. Sì. Prima non ci pensavamo. E i Backstreet Boys, anche loro. I Backstreet Boys penso che siano nell'influenza di qualsiasi band probabilmente italiana, perché soprattutto di che è nata negli anni 80, quindi o massimo fine 80 o primi 90, i Backstreet Boys ci devono essere. Anche un po', io direi, anche un minimo di influenza di Spice Girls ci deve essere, perché anche quello è molto importante. Ma tu, Dani, cosa ci senti invece? Esatto. Io ho sentito, ovviamente un po' qualcosa che avete detto, quel punk rock hardcore melodico, però ho sentito anche qualcosa un po' di pop punk, sinceramente, in mezzo, qualche cosa, anche un po' di qualche link di Enemy of the State o Take Off Your Pants and Jacket, qualcosina, perché tanto alla fine, cioè, la domanda da quali sono le influenze maggiori che avete avuto è... Si torna sempre lì, perché alla fine è vicino FX, Bad Religion, Os, Pennywise, perché sono quelle di maggiore punta. Quindi poi alla fine in realtà uno cerca di fare quel genere lì, però cercando di fare qualcosa di diverso da quello che si è appena detto, che possono essere un FX, Bad Religion, No Use for a Name e quant'altro. Però alla fine, dato che comunque ci sono milioni di album dagli anni 80 fino ad oggi che sono venuti fuori, milioni di riff, milioni di giri, le note sono quelle. Sicuramente qualsiasi cosa che avete fatto voi, non che si noti, è probabilmente già stato fatto da qualcuno più o meno conosciuto. Quindi è giusto ovviamente un attimo per dire: preferisco questi piuttosto che quegli altri, ci siamo ispirati a questi piuttosto che quegli altri, però di base il genere è quello. Poi dopo ci sono tante band che si autocopiano per fare un nuovo pezzo, si reinventano un po' in modo così, quindi è giusto. Sì, ma non ci scappa. La fine del punk rock sono sempre quelle cazzo di quattro accordi che girano sempre. Poi dai la tua sfumatura, però comunque è la stessa roba. Però penso il discorso sfumature su varie, cioè su cose che magari ti escono, se lì in cameretta a suonare, ti esce una roba e dici: oh, è figa questa. E magari tu hai ascoltato due settimane prima, un mese prima, tre mesi prima una canzone. E che ti è rimasta lì, non è che la colleghi, eppure ti è rimasta lì nell'archivio del cervello e ce la butti dentro, no? Esatto. Quindi, che magari è una band pure che non ti ricordi il nome, capito? Poi passa un po' di tempo e ti salta fuori. Ma cioè, questa cosa qua a me è bello, cioè, mi piace analizzare un po' sta roba. Sì, no, e il fatto anche è bello, secondo me, anche che comunque te venendo dal core, comunque ci metti dentro che. Quegli accordi strani o quei giri o quei marroni lì, c'è qua con le mani incastrate così. Quella roba là, per me è figo questo. No, diciamo che secondo me come progetto è interessante, perché tipo secondo me Gigio e Jack, il cantante, niente. Ah, a livello di gusti sono agli antipodi. Sì, sì, vero. Cioè, sì, sono agli antipodi. Cioè, ovvio che stiamo dentro il mondo del punk rock, però sono all'opposto. Cioè, da una parte abbiamo lui. No, non è male. Abbiamo lui che ascolta molto hardcore, dai, tipo stile Comeback Kid, quel mondo lì, e tanto hardcore italiano. Cioè io non ho mai suonato punk rock, è il primo progetto punk esatto. rock. Dall'altra parte Jack, che è molto invece vicino a sonorità tipo Alkaline Trio, Ataris, MXPX. Loro sono proprio i due antipodi. Poi c'è Rolly, molto tecnico, strong out, propagandi, che comunque piacciono anche a Gito. Cioè poi ci sono le cose comuni, però ti sto dicendo proprio... invece siamo io e Bolo, che forse siamo... un po' più simili, a Bolo piace un po' di più Loi, però comunque quelle cose un po' più, non Loi in generale, però tipo, no, per street punk. Ecco, street punk, più che voi. A me piace molto l'hardcore, quelle sono le cose un po' diverse, anche se ci sono alcuni gruppi che ci accomunano, però comunque abbiamo tante influenze diverse, cioè non si limita a dire, ma a me piace l'hardcore melodico, ma è il pop punk, proprio ci sono sfumature. Ci sta alla grande, ci sta alla grande. Siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo con i ragazzi degli Sludder, quindi c'ho praticamente quasi l'ultima domanda da farvi, e vediamo che ho notato che mi è stato detto che effettivamente confermo che è la domanda scarica barile. Quindi io vi vado semplicemente a chiedere, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Approfondire tutto quello che vi... lo so, sono quei paio di secondi che dici, mo che cazzo dico? Io dico sì, poi non puoi improvvisare. Vai. Sì, no, c'è una domanda che praticamente non ci hai chiesto, Parole due, italiano. No, gli ho detto, cosa... Se le canzoni del nuovo... Arriverà roba nuova? Allora, prima poi. Siamo già al lavoro. Sì, non urlare. Non urlare. Stiamo già lavorando a canzoni nuove, ne abbiamo già un po'. Ok. Quindi alcune poi le stiamo portando già anche dal vivo per avere comunque un... È ovvio, avendo comunque solo 5 pezzi registrati, quei 30-40 minuti, nel live facciamo anche 4 canzoni nuove, 4 inediti. Ah, ok, ma quindi adesso domanda stupida ovviamente, che avendo tirato fuori questo discorso, non era meglio a sto punto fare effettivamente tutto un disco piuttosto che un EP? Ci abbiamo pensato tanto anche quello, però c'è una separazione tra queste 5 canzoni dell'EP e quelle nuove secondo voi, penso. Le 5 canzoni sono quelle uscite di getto in sala prove. Non c'era neanche Jack, per dirti. Non c'era magari neanche Jack. Sono proprio quelle uscite spontanee, le prime uscite le avevamo lì, e siccome le avevamo lì da un anno comunque che giravano, ci scazzavano a registrarle. Dopo star lì a vedere col senno di poi con un non so, 15 canzoni tra cui scegliere, magari alcune delle prime che abbiamo suonato, magari suonavano un po' troppo acerbe, e abbiamo detto no, vabbè, è giusto dargli la dignità che meritano, e quindi abbiamo deciso, vabbè, esiste un pre-Jack e un post-Jack banalmente. Okay. Sì, ma non Jack, solo, neanche quello Jack è proprio a livello di band, sì, ma sì, a livello di la band acerba che ha fatto spontaneamente, sì, quei primi 5 pezzi, è riuscita, e quello lì era un tratto, è una cosa su cui mettere un punto, buono, ok, ha finito questo, cominciamo con roba nuova. Le prossime canzoni secondo me sono più... Sono diverse. Suonano diverso, per me più mature anche comunque, sì, suona diverso. Quindi sì, abbiamo deciso di metterle lì e fare le picco, le prime 5 che abbiamo, proprio le primissime 5 che abbiamo scritto, e presentarci così come... Certo. Ci siamo presentati anche tra di noi, pratica. Sì, esatto. Poi, che dopo, chiaramente una cosa che non esce è l'ordine in cui le 5 canzoni di Sooner or Later sono state scritte. Certo. E si vede proprio la differenza dal punto di vista di cosa volevamo essere, no? Perché se io penso alle prime 2 canzoni che abbiamo scritto, che in realtà sono 33 e Porcupine, e hanno dei testi molto ironici, e sarcastici, simili per dirti a Razor Burn dei Legwagon. Okay. Non è stupida, okay. Non è una canzone stupida, ma è ironica. E allo stesso modo quelle due canzoni hanno un testo che si sposta molto lì. Okay. Il resto della produzione degli Sludder invece è molto più introspettivo. Soprattutto con queste nuove, no? C'è e queste nuove del tutto introspettive. C'è più attenzione anche magari a certe frasi, certe cose. È proprio un altro mood, come ho detto, sì. Volo. Cercare anche il mood della canzone. E questo, secondo me, è dovuto al fatto che siamo cinque persone che non si conoscevano. Quindi tu fai delle canzoni con delle persone che non conosci e non è che puoi andare a... Cioè, fai fatica a esprimere te stesso o cose che hai interiormente, no? Perché non c'è un legame. Quando si crea il legame, allora riesci a farlo. Tanto che, appunto, secondo me... 33 e Porcupine sono molto non dico stupide perché non lo sono, però sono più spensierate, se vuoi, dal punto di vista della scrittura delle liriche proprio. Ok, sì, esatto. Ok. Bene, dai, non me lo aspettavo, ma effettivamente ce la siamo cavata bene anche con questa ultima domanda che abbiamo finito in modo serio, che non avrei mai pensato potesse succedere. Ovviamente sto scherzando. Io, ragazzi, vado effettivamente a chiudere la puntata, dove andrò a mettere l'altro pezzo di Autumn, sempre dal vostro EP, Sooner or Later. Io, ragazzi, vi ringrazio della disponibilità e vi saluto. Grazie, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao. E come di consueto, buon pancroca a tutti.